Allora, eccoci di nuovo. Dunque, domani pomeriggio, ore 17:30, assemblea alla all'occupazione di Piazza Indipendenza, un appuntamento importante perché insomma si cercherà di parlare delle questioni che ruotano attorno alle occupazioni, a questa occupazione in particolare, la cui composizione è soprattutto data da rifugiati eritrei.